attimino, ma tu come fai a parlare il francese così? Gli diceva, ma sei sicuro che sei nell'isola della Sardegna? E diceva, sì, sono al QTH, allora diceva, vuol dire che sia al QTH di tuo cognato, che stai parlando della stazione di tuo cognato, che stai facendo da tramite, cosa spiega la situazione? E gli ha detto, lo si dice in Francia, allora adesso ci siamo arrivati perché parli così bene il francese. Da lì incomincia a entrare tutta la Francia, c'era Parigi, Lyon, Bordeaux, poi alla fine dopo sono entrati quelli della Bretagna, che sarebbe la fine della Francia, dove lui ha vissuto per 16 anni, Bref, capito? E non riuscivamo più a capirne una mazza, nel senso che ci chiamavano tutti, allora noi dirigevamo da qua, dicevamo una alla volta, adesso viene avanti Bordeaux, che tu rispondi a Bordeaux, poi Bordeaux, Leon viene avanti, capito? Chiamava le divisioni mio cognato, diceva avanti la 22esima divisione, questo tutto in francese, ma guarda, ti ripeto, non stavo modulando io ero fianco a lui, dicevo cosa dovevo dire, ma mi ha emozionato, è stata una bella cosa. Così un po' per il mondo della radioamatori, capito? Collegamenti a lunga distanza, paesi impossibili quasi da contattare, e quando ricontatti una festa, eccetera, eccetera, poi ci mette il tuo alloggio, ci sono diplomi, c'è un po' di tutto. Per chi ne ha voglia, infatti Natalino c'ha pazienza, io non. No. Poi non c'ho più memoria, cosa vorrò studiare adesso, no. Adesso mi corico qua sul divano stesso, a mettere il volume del baracchino a filo al minimo e mi collasso, poi gli ne parleremo. Antonio, riprendi, dai, se per me è quasi QRP, rimango all'ascolto. Tanto non ti si addirittà più, cazzo. C'è una diga, Te l'ho detto, io l'ho appeso al chiodo, tipo quegli amuletti, quei cornetti, portafortuna. Ma non mi posso credere, dai, perché? Ma dai! Oppure mi voccio a portachiavi. Sì, io ando a bomba ancora, Vabbè, già funziona tutto, ma non c'è la voglia di stare a... troppo impegnativo, per carità, no, poi le donne pretendono troppo, io non ho nessuna voglia di fare sacrifici, francamente, non li ho mai fatti, non inizio adesso per le donne. Eccomi, figli, qualche soldo, ti do qualche indirizzo, andi, ti fai la montata, te ne torni a casa, chi ci ha visto, ci ha visto. Già fatto, anche cosa troppo. Vabbè, dai, qualche voce, non sempre. No, mica non è vero, No, io sono contrario alla prostituzione, perché poi è come se stessi alimentando quel traffico lì, capito? Quel traffico lì. Chi ci guadagna sono i magnaccia, poi. Quelle povere disgraziate non ci guadagnano nulla quasi. No, non è così, no. Non è così, perché ce ne sono certe che invece loro lavorano e guadagnano bene, guadagnano bene. Non è neanche tanto così. E vivono meglio di noi. Ma vedendo le buttate in strada lì a Pradanieta quando passo, dubito che facciano una vita migliore di noi, mamma mia. Va bene signori, chiusura delle trasmissioni, buonanotte a tutti e soprattutto a me, ciao, riprendi Saverio, non c'è più, va bene, buonanotte a tutti, ciao. Era quella un'altra categoria per Marco, ok, ciao. Ciao a tutti, dai che io qua chiudo, vado a farmi la doccia. Ciao a tu. avanti. Buongiorno. Oh, buon fulmine. Perché se siamo a 10 me lo spieghi? Cosa? Sì, sono 9:10 di segnale. E con 4 watt quanto vuoi che ti arriva? Se vai più forte, maggio compreso. Sei più basso. Più basso? Boh, aspetta un attimo. Eppure stazionaria, non è ora. Quasi 9:15, sì. Ma c'è un sacco di casino sul canale. Di preparazione. Perché prima più forte ti arrivavo, Antonio? Se non mi sono lamentato vuol dire che arrivai più forte prima. Adesso vai meglio. Sì, vabbè. Sono con 4 watt, sono, cosa vuoi? È un apparecchio, cosa vuoi pretendere? Il 3.900 c'ho, mi l'ho omologato. Già l'ho capito quello che c'è il 3.900 omologato. Ma non è l'ultimo, già te lo puoi anche dare ogni tanto già. No, che mi hanno messo nel mirino Antonella, capisci? L'ho venduto tutto quanto perché qua adesso verranno a controllarmi sicuramente. No, che gatto, sono facili con le denunce e con le cose, quindi meglio stare in regola, niente aiutino. Cazzo, come ti sei pensato, non te la nuova, cazzo, immediatamente ti hanno incolato, cazzo, gira. Se lasciavi la vecchia, aggiustavi, gira, non ti avrebbe rotto il cazzo. Cazzo, meno male che a quello che disturbavo sono andato e sono riuscito a aggiustargli l'antenna della TV. Quindi adesso non disturbo più a nessuno e non voglio, rompimento di balle da nessuno. Sì, vabbè, ma che prima mica disturbavi, no? Se uscivi, ti posso dire, come l'ho fatto, io penso che nel palazzo non so se sarebbe accorto, quindi non so cosa dirti, l'altro lato sai con quella lì com'è, quindi a un certo punto, sarebbe che quella che è purtroppo, una volta ti pigliavano di mira, che ce l'hai o non ce l'hai, puoi pensare anche un cesso sopra il tetto, immediatamente pensano che siamo andati di baracchino. Se appena non ho visto quella nuova che era in terra, che la stavo piazzando, cazzo, questa mi disturba di più! Logico. Hanno pensato a quello, non ha pensato. È una cosa normale. E invece non disturba nessuno io più. Già non disturba lei questa come antenna, perché non ha radiali, non ha niente, non disturbo nessuno. Quello là lo disturbavo perché c'aveva l'antenna tutta incasinata. C'aveva l'alimentatore con tutti i morsetti mollati, l'amplificatore a manetta che non serve a un cazzo perché non ce n'è bisogno qua. E gliel'ho messo a posto l'antenna, se l'alimentatore mi è rimasto il capo in mano come sono andato a prenderlo. Cazzo, ho preso, gli ho fatto tutti i collegamenti nuovi lì, gli ho messo il cavo con le fascette perché era fatto a mastro isolante, era fatto, cazzo, un casino qui, tutti i cavi binduroni, virani, adesso è fatta come si deve, e infatti ho fatto le prove e non lo disturbo più. Mi dava a futa perché era un uomo vecchio, cazzo, e a disturbavo mi rompeva le balle, capito? Meglio, cazzo, almeno adesso non lo disturbo e non mi dice più nulla. Lo so questa storia qua, non ti preoccupare. Quella che quando sono salito qua, anzi quando sono salito qua, la volta scorsa per la parabola, me stavano staccando la mantova a me, lo sai, i tecnici. E quella sotto gli ha detto, dice, stacchi l'antenna del baracchino, così io vedo, dice, la TV satellitare. Meno male sono uscito io nel terrazzino, ho detto cosa sta facendo? Si è piazzato l'antenna, dice, la parabola dice nel palo in ferro, ma ha detto ma non ti sei accorto, ho detto che palo in ferro è agganciato tra la staffa con due cose. Ho detto, vedete cosa vuoi fare, io ho detto. E sono, ho detto, 4 kg di palo, 3 kg di antenna, se ci vuoi scendere giù, io non ho problemi, gli ho detto, se vuoi cadere dal tetto, gli ho detto, io non ho nessun problema, ti sei ammazzato tu con la stronza di Giulio, ho detto, non io. Ho detto, quindi ho detto, vedi tu cosa vuoi fare? Perché aveva già mollato a me due bolloni della mantova nel fianco, e tu la mantova turbo e pensarci la parabola sopra, hai capito? Ha detto, quella l'antenna era mia, e ho detto, il palo, l'antenna, la baracchina, la mia, gli ho detto. Ma questa dice potrebbe risolvare, cioè aspetta, facciamo così, come metto il mio principale, ci metto la catastagnola e c'è sapato l'illuminatore, ho detto fai così, ho detto. Che poi ne parliamo, ho detto fa 15 giorni, il primo temporale, ho detto che gli fida fuoco la casa, gli ho detto, stai tranquillo che denuncio, ho detto a te, il principale tuo e anche chi ti ha chiamato, gli ho detto. Allora beccato, cosa vuoi fare? Ho detto, l'illuminato a calzo, ho detto vuoi fare? Ho detto, quello si fa solamente col pesce, ho detto, che cazzo l'avete questa storia qua, gli ho detto di mettere l'illuminatore con la carta stagnola intorno per scalmarlo. Ho detto, mica stai facendo il pesce dentro un forno, gli ho detto. Quello gli ho detto, sono coglionate, il principale non capisce proprio un cazzo, gli ho detto. E tu io sono detto 20 anni e te lo faccio tecnico, non hai capito un cazzo, gli ho detto. E tu guardati il diploma, gli ho detto. Stato bene, gli ho detto. Dì al principale tu che se ne vai a cagare, gli ho detto. E poi non toccare l'antenna mia, se no ti sto denunciando subito, l'avrei detto. Che quella è la mia l'antenna. La parabola se la mette in culo quella lì, l'avevo detto. No, io ho detto, se vuole piazzare la parabola, ho detto la piazza più giù, gli ho detto. Gli fai 4 fuori, se la piazza più giù, a cazzi su, gli ho detto. No, a cazzi del condominio, se la fa a cazzi su, gli ho detto. Che se ho detto, stai detto, più di 2 mesi qua, gli ho detto. Non so di stare una settimana, sei già 2 settimane qua, gli ho detto. Non ti rendi conto, gli ho detto, che ci sei detto, ci hai messo un sacco di soldi, gli ho detto, per venire qui. Fate tutti due tecnici, gli ho detto, mi voglio bene, gli ho detto, perché siete due tecnici, gli ho detto, che state detto, appena iniziato detto, il lavoro, detto, però non fatevi pigliare per il culo, gli ho detto, da certe persone, gli ho detto. Quindi, gli ho detto, fate quattro fuori, la installate lì con una gaffa, eccetera, eccetera, e poi installate la parabola, gli ho detto. Cazzo, detto, cos'è questa storia, gli ho detto, nuova, gli ho detto, che bisogna metterci la carta stagnola nell'illuminatore per schermare, non sa che cazzo il baracchino disturba il coso. E cos'è detto, l'illuminatore a cartoccio, gli ho detto. E tu se vuoi detto, l'ho detto su Facebook, se ne vivo tutti, gli ho detto, mi dici che il principale è tuo e ci metto anche il nome, gli ho detto, così almeno ho detto la figura di me la fa lui. Ma dove cazzo esiste, detto, io ho fatto 20 anni di lavoro, ho detto, mi detto, con 7 di principali diversi uno all'altro, ma non ho mai visto, ho detto, dimmi una cosa del genere, mettere in un illuminatore la carta stagnola per fargli la schermatura. Cattavino, sei caduto? No, è venuta la 50 e mi stava dicendo cose. Cosa ti volevo? E poi gli dovevi, cosa cazzo c'entra l'antenna del baracchino? Che io trasmetto in analogico, il digitale non lo posso mai disturbare. Così gli dovevi dire, e si gagliavano i muti. No, io gli ho detto diversamente. Se voi siete tecnici, gli ho detto, l'illuminatore della parabola, gli ho detto, c'è una frequenza. E il baracchino, ho detto, ne ha un'altra. Quindi, ho detto, dalla 27, ho detto, qua c'è scritto l'illuminatore, leggilo bene. Ah, c'è scritto questa frequenza. E allora, secondo te, detto, che differenza c'è? Parecchia. Ah, ho detto, non mi avete accorto, gli ho detto. E lì, ho detto, a principale tu, gli ho detto, ci faccio una cagata, gli ho detto, quando ne ha voglia, ho detto. E se solo che me lo dica a me, e tu hai lavorato con dietro, dici che ho lavorato con Prospero, gli ho detto, non sono lavorato, ho lavorato anche con Marco Micchi, a me che sono stato leggendo, non ho mai sentito in vita mia, la catastagnola, ma vada a fare, guarda. Sì, per fargli la schermatura, per non disturbarli i radiali dell'antenna del baracchino, hai capito? I radiali. Poi, siccome lì, come si chiama, la madre della staffa me l'ha lasciata, e adesso io ne approfitto, mi piazzo la, dove c'è la staffa che mi ha lasciato un vecchio, mi piazzo la, il palo nuovo, mi piazzo di lì. Ormai c'è la staffa regalata, sono contento, mi hanno regalato anche la parabola vecchia, per conto di dire, neanche 6 mesi. Quindi figurati tu, è la regalata mia a quel ragazzo che c'è qui alla Cuvetta. Ho detto dopo una parabola, ho detto nuova, gli ho detto c'ha 6 mesi di vita, dice dammela, appena gliela regalata, ho detto mi piazzate la casa tua e arrangiati, perché io parabola non le voglio neanche sapere, a parte adesso segnale detto, digitale non è più analogico, quindi non vedo più un cazzo con quel ricevitore Sky, non ho detto soldi, non ne ho detto a spaccare per queste storie qua, oramai la cosa è cambiata, fa poco si è andato tutto via a cavo, le TV, quindi cosa cazzo me ne faccio della parabola, non faccio niente. Sì, infatti, via. Che non l'avevo mai intesa che c'è di ragazza signor. Così schermava l'illuminatore e non pigliava la tele. No, lo guardo, in pratica schermare l'illuminatore, capito? Se non prendere i segnali dell'antenna del baracchino. Se con la testa sua, mi ha detto questo qua. E ti ascolta, io ho detto. Facciamo una cosa, ho detto, stacca l'illuminatore, gli ho detto, e dice il principale tuo, gli ho detto che prende l'illuminatore anche lei, la stagnola, e lo sto cucinando a cartuccio, gli ho detto, se gli va bene. Così me l'ho detto, è schermato e a posto. Non è microonde, glielo metti. No, microonde non ne avevo io, se lo pigliava a fuoco, già lo sai che c'è, con me non è che vai molto d'accordo con microonde. Però con fornetto quello normale sì, mi avrei cucinato, lo sto dicendo io. Oh, yeah. Ma che vuoi che ti dica? Tutto un casino, È la mia nuova che ce l'ho la parabola, gatto Antonio. E non l'ho mai usata perché non prende qua il satellite, che c'è quell'albero, gatto, che dà fastidio. Lo so, dato che ci vedo, scusa, non troppo devi pensare nel palo. Avevo pigliato, come si chiama, la parabola, installata lì e avevo fatto la paratura e te l'avessi messa lì, la parabola sopra. Vabbè, sull'autobito non c'è più niente ormai, quindi te l'avessi fatto, a meno che non ti metti... come ti posso dire, i canali SAT, quelli normali che li vedi con il codice vittore a pagamento, cioè è gratis lo stesso, però devi comprare il ricevitore, ma non te ne vai nuda, già li vedi chiaro così, già con l'antenna digitale per retro, non c'è bisogno di avere l'altra. Sì, infatti io li vedo bene. Appunto per quello, vabbè, al limite l'avessi puntata su a potersi su Tobid, su Astra, se avessi guardato tutti i canali tedeschi, c'è Viva TV, ci sono dei canali belli che dove si vede tutto in chiaro, ci sono anche dei canali che dove fanno vedere i film che sono spinti addirittura, non è come in Italia, capito? Acci, sì, acci. E il cane stava facendo i capricci e stava abbaiando. Mi stavo odorando perché... Quindi sentivo più a lui e a te. Allora, lascia perdere, guarda, io ho fatto una figura in mezzo ieri mattina, c'era Tommy con me, sono andato lì alla... dove c'è il bar di Sonia, arriva questa cagnetta, ha preso lui e ha cominciato a leccare dietro, sembrava che leccasse la fragola. Deve essere che è in calore quella cagnetta, ho visto l'attento che se la saltava. Ma la cazzo saltava, Giorgio gli saltava lei a lui, te lo sto dicendo. Si è messo a leccare, cazzo, sembrava che fosse leccando la caramella, cazzo. Ne avevo la faccia in terra, cazzo. Allora ho spinto il cane fino alla... dopo la parrucchiera. A un certo punto, che se ce la faccio, metto davanti a tutti e sta a fare una figura di merda. Ehi, un cane è mio, Antonio. E cosa ha fatto? Si ha leccato la parrucchiera. No, si ha leccato la passata, non la parrucchiera. Va bene, se la leccata, cazzo. Sono quasi mezz'ora, non la gioco peso, cazzo. Ai. Cazzo vuol dire che braghetta allegro di su cane? Purtroppo la stessa padrona, se no lui avrebbe leccato quella del il cane avrebbe leccato la patata del cane, io l'avrei leccato quella della padrona. E vedi, Vittola, tu almeno un inutile al dilettevole. Sarei sceso al limite in garage, sarei sceso, avrei messo il cane da una parte e io dall'altra. Come sarebbe sceso a simulare qualcosa, ho cazzo con la... con Chris, a tirarmi la testa. Mi vergogna, ragazzo, mamma mia. Adesso io non ho mangiato niente, il cane, oggi me la mano ha mangiato, mi. Adesso ormai lo faccio uscire, vediamo se riappare quella, per sbaglio, ti casco, ti mollo, vai, fai quello che devi fare insieme a lei, ma te ne torni a casa, se no te la prendi il culo, tu e lei. Ah, che sugano, è una scena, mamma mia. Ma cosa vuoi? Cosa vuoi? I cani maschi non sai cosa vogliono. Quello lì, quello che hai tu, deve essere in calore quel cane. Se avesse sentito l'odore poco a poco che la cagna era in calore, ce l'avrebbe soltata. Ma che gliel'ha messa in faccia, mica? Lui gliela leccava, lui ha preso poi, è strano, ha preso e gli ha fatto capire, in pratica lei ha preso e gli è saltato sopra lui, lui ha detto se è mosso, non lo so, pigliava lui e leccava di nuovo, cazzo. Evidentemente non era pronto, cosa ha cazzo nel soio? No, non era pronto, se no gli sarebbe saltato subito, capito? Vuol dire che non era pronta ancora, perché sentono l'odore da lontano. Vabbè, ma cazzo. Fu stato a posto mio e avesse si è saltato, cazzo. Anche davanti ai vigili urbani. Se hai visto quello, cazzo, si è bevuto. Si firma, si è bevuto un whisky, cazzo, in macchina, cazzo, guidando. Poi, si è incuta alla macchina. Alla macchina abbia in pieno, cazzo, ma... Mi ha detto Giovanna ieri, cioè, stavo rientrando, mi ha detto dice da Pizzicotto, ho visto questo incidente, mi ha detto, 131. E tu mi vale, non sei passato dalla parte opposta, se no sei passato al studio, ho detto. Ancora lì sta lavorando Giovanna. Ehi, ancora lì sta lavorando, la mattina, la sera no. Perché anche di mattina le fanno le pizze? No, sto facendo solamente cosa? Non pizze, solo pranzi. Ah, ristorante, dai. Io sono ristorante. Questa sera sto lavorando un pochettino ho scritto lavoro, Sassari. Cazzo, stanno cercando poca di gente, cazzo, negli hotel, nelle pizzerie, cuochi. Di tutto stanno cercando di più, cazzo. A sfruttarli bene, mi. Cazzo, non andare a travagliare gratis, vai forse la ieri, non vanda. Tu mi fai valori e mi ribaghi, però. Finché non esce la legge non vedo ora, se fanno non vedo ora vedo la gente va di nuovo a lavorare, lo sto dicendo io. No, 3,50 massimo 5 euro, capito? Industriale, a sceme cazzo. Dice stanno rovinando, dice Salvini stronzo, peggio della Meloni, dice diamo i soldi di cittadinanza a cazzo di imprenditori. Se fanno una cosa del genere, sai cosa succede cazzo alla Meloni, cazzo. Prendono, gli mettono fuoco cazzo a lei, cazzo, e anche a lui gli mettono fuoco cazzo, anche a Salvini, te lo dico io. Fine minire, Antonio, e quelli non lo sanno cosa vuol dire andare a lavorare. Se quando andavo al comune, ma sai quanto mi davano a me? 7 euro mi davano, ti credi mi davano assai, uno stipendio da fame, 7 euro all'ora. Operaio qualificato, magari gli altri prendevano anche di meno. Lo so, e io invece l'ho fatto per 300 euro, 3 volte a settimana per 3 ore, lì al comune, e così non ho avuto niente. Arrivavo con quello stronzo, cazzo, come si chiama, che si faceva tutti i giorni, capito? Andava lì e si ritirava i soldi alla banca di Sardegna, la faccia mia, e mi pigliava Bulba o Guru, non so altro, hai capito? E ti sei proprio fino in culo, cazzo. Avrei preso, cazzo, nella lista, guarda, come si chiama, l'avevi eliminati questi drogati. L'avevi veramente eliminati, uno per uno. Non vuoi fare nulla? Ah, in Crimea li avevi mandati, cazzo, a fare i militari. Allora, almeno sei drogato, non senti nulla, non vedi niente. Vai, ti ammazza qualcuno, qualcosa ti se ne frega. Vabbè dai, Antonio, devo chiudere che mia moglie mi ha chiamato qua e sta iniziando un programma che mi interessa. Allora, ci sentiamo alle prossime. E ciao, ci sentiamo, basta, mi bene. Buon tutto, a domani al limite, dai. Adesso sto un pochettino in ascolto, poi mi vado un po' in televisione. Tanto che sono tutto il giorno a prese i bambini giù, stavo facendo il bambinaio. Tutto si toccava. Purtroppo è così, sono zio, quindi a un certo punto lo devo fare. Non sto facendo niente, il bambinaio faccio gratis, cosa devo fare? A un certo punto. Quando rientro a casa, rientro, poi bevo un paio di birre, preso dal supermercato, perché ormai al mare c'è poco da prendere, c'è, a 3 euro. Con 3 euro mi escono, vabbè, adesso l'inchiusa costa 9,30, quindi, alla Coba, che figurati, al Coba mi sembra costa 9,10 con la carta. Vabbè, ciao. Vabbè, dai, ci sentiamo, stammi bene, Antonio, che sta iniziando una cosa alla televisione e me la guardo. Uia, stasera studiando stavo. Ci sentiamo alle prossime. Pigliati questo cazzo di patentino, almeno sei tranquillo. Hai capito? Puoi salvare quello che vuoi sopra, di seguito sei più tranquillo. Almeno non sei stressato né niente. La spesa l'hai fatta, quindi non ti costa nulla. Aspetta per fare l'esame, se sei a posto, che sei promosso, come c'hai immediatamente il patentino, possono dire quello che vogliono, ti possono mandare i pompieri, la guardia di finanza, quello che vuoi, tu sei tranquillo. E infatti, mi dispiace solo perché mi ho dovuto vendere tutto, ma già me lo ricomprerò. Ehi, vabbè, per quello non preoccuparti, già te lo puoi riprendere quando vuoi la roba, già lo sai anche tu. Io ho avuto dei alti e bassi, quindi già l'hai vista anche tu a un certo punto, quindi ma almeno 140 me lo sono ripreso, non sarà 180, però almeno 140 me lo sono ripreso, poi in seguito se dovessero chiamarmi a lavorare, cosa del genere, allora cambierò sistema. Non ci sarà solo questo, ma ne prenderò anche altri, quindi mi farò la cosa come si è detto, poi dopodiché al limite, secondo me, studierò. Come ha fatto quella lì a Centrone, che con la patente sa pigliare, guida bella tranquilla, si fa lo stesso a 60 anni, si piglia il patentino per il motore, dopodiché quando sarò creppato se la biglia in culo, vuol dire che le apparate se le prenderanno gli altri, cosa vuoi ti dica? Ciao ciao, ci sentiamo. E io, ciao ciao, a te tanto, ciao. Hola. Avanti. Oh, ya, cuando fue fai così ti temo io a te. Oh, tu sì che mi cambi nevi, avvermi, no? Ciao Antone, buonasera. Ciao, sempre buonasera anche a te. Sei entrato, sì. Ehi, ehi, ero al corso, poi dopo devo andare a prendere a recuperare mia madre che era in campagna a miei zii, a maciare gli altri. E nulla, e adesso siamo qua, mangiato, adesso mi fisco a terrazzo, mi fumo una sigaretta, ero un po' nel canale di su, ascoltando un po' di preparazione, ma cazzo va bene da rinare il caro, cazzo. Sì, tutte le sette rischi c'erano, guarda, perché mi ti siete più che altro, guarda. Già li ho sentiti, no, vabbè, stasera adesso tedeschi non ce n'è. Vabbè, qua su questa banda, su 34 in USB, in LCB ci sono tutti quanti portoghesi. E che ne ha avuto voglia stasera di stare a casa, pensarlo. Io sono invitato alle 8 di sera, figurati. Ero giù, da una cosa all'altra, fammi la spesa, per i bambini, giù, e quindi sono entrato alle 8:30. Ho trovato 5 minuti a Natalino su questo canale, dopodiché Natalino è andato via e sono rimasto io, immaginate tu. Ma che microfono stai usando, Antonio? Il microfono normale, del 140. E il microfono, ma il processore è attaccato? Adesso sì, ma meglio? Uno e tre? Gava. Come va, è attaccato il microfono a tavola? Ah, vabbè, l'ho staccato io perché sentivo male la ventola, ma se voglio attacco il box e parlo tranquillamente con il microfono in terra. Ecco la gamba, io lo so, quando poi io il raio come sto uscendo. Bene, a voglia, aspetta un attimo. Aspetta che posso usare il box, aspetta un secondo che l'aggancio. Lo so cos'era, Antone, il problema che alzavo l'amplificazione mi innescava, prova a indovinare. Aspetta, la trasfusione non ha funzionato, come mai adesso? Aspetta, ho usato il box, l'altro giorno non so, dimmi tu che difetto era. Lo spezzone c'è lui, dal baracchino, all'apparecchio, al coso, alla stufetta c'avevo lo spezzone di RG58. Me l'ho levato, l'ho fatto di 213, non innesca più, l'amplificazione è a manetta, innesco anni senti, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. No, stai scendo bene. Ma secondo me io quell'idea me l'avrei tenuto la verità. Sei tu che sono i tuoi, ma dato che hai fatto un sacco di cose per la ferro, io me l'avrei tenuto. Di riserva, naturalmente. Come sta andando? Pompando sa, chiamo, mi rispondono tutti, anche questi inglesi adesso sopra, parlando in inglese. Avanti Italia, però capisco la massa, ho conosci la lingua o un misma. Comunque ti posso dire, la gente che, i posti che sto collegando da qua, dal terrazzo, da dove abito ora, sto collegando più da qua che da quando era a casa di mamma. La zona quindi non è. Sì, lo so, infatti. La zona vuol dire parecchio. Anche per me è stata l'unica cosa. In pratica non abitavo in via di Zeddu, parlavo con chiunque tutti i giorni, con la Spagna, con il centro Sardegna, in Chiara, eccetera, eccetera. Poiché arrivato qui, l'altro io sono morta, cazzo. Osio, Luvi, Tempio, eccetera, eccetera. Invece là, c'avevo proprio tutto aperto. E sono rimasto fregato, visto? Sono stato invece lì, ancora in quella mansarda, a abitare, avrei fatto... Sei stato il re della foresta, sarei stato, ti giuro qua. Capo, no, allucinante, a meno volte manco ci credo, ragazzi. Cioè, sono con un quarto d'onda, con due ruote tagliati. Chiamo e mi rispondono... Adesso questo qua, chissà dove cavolo è, questo qua è inglese. Subito avanti in Italia, però capivo, come parli? Gli ho detto, l'italiano non ne capisci, nada, nulla, allora ciccia, ciao. Hai fatto bene. No, io l'altro giorno mi sono accorto che c'era, adesso segnate la frequenza, 27, 3, 3, 5, vicino a un ponte radio c'è. Tu parli e ti senti la voce tua, tu dici 1, 2, 3, 4, ti senti di nuovo la voce tua, 1, 2, 3, 4. Non so se sia roba dall'Ucraina, dove cazzo sia, comunque sia, c'è. Quando parlano di tedesco, specialmente mi c'è quella propagazione, ti senti la tua voce. Vabbè, io adesso qua frequenzi mentre non ne ho, a che canale corrisponde? 27.35, dovrebbe essere 22.05, quindi dopo i 30, là. Che canale, Antonio? Aspetta, lo dico subito che mi metto l'attaparecchio in aspetta. Facciamo che sia 35. Allora, 30 e... vediamo un po'. Aspetta un secondo, lo dico subito. Ehi, tu vuoi tornare qua, passiamo a mandare a terra che ci sono dei tipi forti. Aspetta un secondo, te lo dico subito. Allora, canale 33, segnati, in FM. Vabbè, cosa c'è? Il ripetitore? Sì, c'è un ripetitore lì. È un ripetitore simplex, in pratica. Pappagallo si chiama applicato. Tu parli e ti senti la voce tua. Uguale. Su 33 FM, c'è a vedere, aspetta. E io a questo non so se ci sia, la verità. Facciamo la prova, vediamo se c'è.